sulla piazza m'aspettavi, al mio cuor Rosanini sembravi un angelo, sotto un cielo inargentato sussurravi. Io vivrò del tuo respir per non morire. Rosanini, Rosanini, non era vero. Rosanini, Rosanini, non m'ami più. Al tuo fianco fino a tardi passeggiavo, il mio cuor Rosanini com'era semplice, un mazzetto di violette ti compravo, non potrò lasciarti più. Dicevi tu, Rosanini, Rosanini, non era vero. Rosanini, Rosanini, non m'ami più. Una sera freddamente mi baciasti, che dolor Rosanini vederti fingere, pur sapendo di tradirmi mi giurasti, ti vedrò domani ancor mio dolce. Rosanini, Rosanini, non mai.